was the tiniest, but his mother called her Tiny. And she had long hair down here and round face. Sweet. She had a rotten life. Everyone in the family had a bad life. She was my sponsor. Now you had to have a sponsor to become a citizen. She told me that every time they went to the banquet, which was every 6 weeks, they had a banquet for the chief. They would come home and Mike would take the money for the babysitter and jam it down her throat. And yet to look at him, you would not think there was anything wrong with him married all the time. But he was in hell once he got it by himself. He would say, you want to go out? Here's the money, give it to the babysitter. lavoro decisamente ispirato, questo di Vanessa Rossetto. Beh, poi l'ispirazione è anche piuttosto forte, visto che raccontare insomma una storia così vera, realistica e così disegnarla appunto in termini sonori così ispirati, è veramente lavoro che tocca insomma grandi sensibilità, non soltanto musicali, ma anche quello che riguarda appunto ritrovare la narrazione dentro un mondo che magari per tanti versi non si racconta più, non ha più voglia di raccontarsi, o comunque la narrazione si blocca, è fermata dentro insomma quello che è un paesaggio poi postmoderno, quindi ancora legato ai frammenti, tutto sommato, insomma, anche in contraddizione con questo 451 frammenti sonori. Invece il racconto è quello attuato da Vanessa Rossetto, ma potremmo anche proprio parlare di narrazione tout court, e prevede questa unicità, questa continuità, questo essere analogici, non più digitali, non più lavorare quindi per bit, frammenti, ma appunto dando una continuità. E quello che fa poi in Wall Story appunto Vanessa Rossetto, ma anche in altri lavori editi per molti appunto prodotti usciti dalla Vanessa Rossetto, che prodotti insomma lo sono fino a un certo punto, come accennavo prima, sfondando anche appunto anche il termine merceologico oltre che artistico di prodotto appunto estetico, ma comunque insomma lavori editi dalla Kai che è legata a Graham Lampkin, e lo citavamo prima per quanto riguarda Jason L'Escalier. I lavori di Graham Lampkin vanno per molti aspetti così a deretizzarsi in parallelo con quelli di L'Escalier. Forse Lampkin ha quel senso più poetico, tra virgolette, più vicino insomma a una forma insomma di scrittura vicina alla poesia, e per tanti versi anche al suono e quindi alla poesia sonora. Jason L'Escalier magari è più legato a una ricerca strumentale e tra micro e macro, come accennavamo prima, qua invece con Graham Lampkin tante volte il suono diventa poetico e si fa poesia appunto sonora di fatto. Non è un caso insomma che i riferimenti di Graham Lampkin vanno tanto da Harry Christiansen, ascoltato prima, e a Joe Jones che concluderà la trasmissione questa sera di 451 frammenti sonori, dedicata appunto al narrato concreto, questo viaggio sonoro che è stato esplorato tanto da molte avanguardie storiche, come da Henri Chopin, quindi da chi poi ha compiuto un lavoro anche letterario dentro le musiche, di fatto insomma adoperando quello che poi nella poesia è straordinariamente vivace e vitale, ovvero il suono. Già insomma alla fine dell'Ottocento stava diventando di fatto la poesia con Baudelaire fatto sonoro, e saranno appunto esplorazioni portate avanti dalle avanguardie storiche, dalle neo avanguardie, prima citavamo Henri Chopin, che porteranno insomma a pieno compimento la poesia sonora. Graham Lampkin per tanti versi si fa proseguitore di questi esperimenti sul suono della parola e sulla trasformazione appunto che può avere la parola in quanto suono, quindi perdendo anche lo stretto significato, ma diventando insomma di fatto significante sonoro, e dilatando insomma questa anche potenzialità che di fatto dentro la parola C'è Graham Lampkin, quindi da questo amateur double, Philip Gronsche, Treehausen, Mine Away, e anche qua si riprende poi un percorso, quello di Philip Gronsche, che fece uscire questo disco, e viene citato direttamente, ripreso in questa opera di Graham Lampkin, amateur double, disco edito da Graham Gronsche nel 1975, e anche qua dalla Paul Record, che lavorava molto riguardo proprio al suono parola. Ci sono tanti personaggi come Eldon che hanno fatto, insomma, anche del suono parola, anche un fatto quasi politico, se non apertamente tale, quindi anche di fatto un esperimento, insomma, su quello che poi diventa di fatto concreto, e appunto fatto sociale, perlomeno, se non immediatamente politico. Graham Lampkin, quindi, con questo amateur double e questo rifacimento, questo riaccostamento, riferimento a Philip Gronsche con il suo 3000 Mile Away. Beh, è un viaggio tout court, veramente dentro mille suoni che possono dare musicalità, suoni che dal suono parola e a quello che invece può essere il suono concreto dell'ambiente sonori utilizzati da Graham Lang in Amateur Double, diventano di fatto struttura e vanno fuori anche appunto da quello che, insomma, la partitura anche improvvisativa che prima citavamo tanto per Jason Lescalet con il primo periodo e come Imperin, ma lo stesso appunto Lumpkin e con le collaborazioni appunto con Lescalet, e cerca di elaborare anch'egli un piano improvvisativo che possa lambire anche, possa sperimentare insomma i territori dell'impro, ma appunto con invece questi lavori editi in maniera solistica va appunto più a cercare quello che è un suono che evidentemente si ciba tanto del concretismo, del concreto e tanto appunto di quello che può essere poeticamente inteso appunto come suono e come trattamento di questo, sia in termini strutturali che in termini insomma più larghi di evocazione, quindi anche poi di parola immaginario anche che rimanda poi a, in questo caso, a Philippe Granchet, al lavoro del 75 dello sperimentatore, 3000 Mile Away, una specie di ripresa, registrazione e di rifacimento di quel lavoro, anche un lavoro poi alla fine concettuale, no? Rispetto alla ripresa di vecchie operazioni, che vecchie non lo sono affatto, ma operazioni insomma che portano gli anni insomma che hanno sulle spalle, ma dando appunto poi quell'ascito incredibile che a distanza appunto del lavoro di Granchet del 75 e a distanza appunto di 40 anni vengono appunto rievocati e rivissuti, narrati nuovamente attraverso la forma concreta della registrazione, della ripresa, e sia invece quello della vocazione così più larga, più dilatata, se vogliamo, come anche il tappeto sonoro che accompagnava questo inframmezzarsi poi della parola, del suono di Granchet, che portava quasi a lidi ambientali molto, molto evocativi e anche suadenti, no? Per molti aspetti. E concludendo un po', l'accennavamo prima al Fluxus, che avrebbe di fatto chiuso la faccenda di 451 frammenti sonori questa notte, nel narrato concreto. Beh, Joe Jones, personaggio importante del Fluxus, qua andiamo a prendere da un lavoro che è tutto un gioco poi legato alla parola suono, che si intreccia e col suono musica di fatto, Kitchen to Kitchen, quindi tutto un rincorsi di suono parola che sentirete giocando tanto su vari personaggi citati del Fluxus, ma non tanto come citazione diretta dentro un pezzo che comunque musicale vuole essere, ma proprio come possibilità sonora del nome. E in effetti ci sarà anche un gioco con Yoko Ono, soprattutto giocato su questa eufonia che dà il nome della storica giapponese, anch'ella dentro il Fluxus, e poi un omaggio omaggio poi diretto anche a lui, a Joe Jones e a tutto Fluxus, ovvero a John Cage, sui giochi appunto sul riempire, svuotare il silenzio, il suono pieno cageano che tanto ha ispirato non solo il Fluxus direttamente, visto che ci partecipava in prima persona, ma anche buona parte insomma delle avanguardie che si nutrono e assorbono insomma le sperimentazioni tra micro e macro. E io vi saluto, Max Macchia vi saluta anche i quasi addormentati magari che ci stanno più o meno ascoltando in questo momento, o gli sveglissimi, perché è tremendamente svegli per sempre magari. E Max Macchia vi rimanda a mercoledì prossimo per 451 frammenti sonori, e vi rimanda anche per chi appunto è sveglissimo in questo momento, chi non è addormentato, ha un appuntamento decisamente interessante che è in quella di Forlì. Un personaggio che fa parte della sperimentazione sonora, che quindi insomma voglio stimolare, come dire, la ricerca. Andatevi a cercare cosa succederà domenica, organizzato tra l'altro dall'Area Sismica in quella di Forlì, lo troverete tra l'altro anche sul nostro blog, insieme alle trasmissioni di 451 frammenti sonori, 451 intersezioni. Così vi rimando anche a un appuntamento tra l'altro gratuito, quindi faccenda assai allettante. E non vi svelo il nome stasera, insomma non volevo svelarvi alcune cose, ve le ho svelate, queste non ve le svelo, appunto vado, come dire, a stimolare la vostra curiosità. E concludiamo appunto con Joe Jones, vi rimando a mercoledì prossimo per un prossimo viaggio di 451 frammenti sonori. Dead Crew, George McCunis, Robert Filliou, Bob Watts, Arthur Kopke, Albert M. Fine, Freddie Hercule, Brian Luzak, John Cage, Philly Joe Jones, John Lennon, Charlotte Mormon, Andy Warhol, Gene Tingley, Tiger Morse, Joseph Beuys. Jeffrey Hendrix, Nam June Paik, Emmett Williams, Ben Patterson, Ben Vautier, Allison Knowles, Dick Higgins, Jackson McLow, Philip Connor, George Brecht, Larry Miller, Ken Friedman, Milan Knizek, Henny Christensen, Frank Pellegrini. Schmidt, Wolf Hostel, Daniel Spurry, Dieter Roth, Stefan Wawrzyka, Mary Bauermeister. Japanese page. Shigeko Kubota, Mieko Shiomi, Takahisa Kasugi, Yoko Ono, Takako Saito, Yoshiwada, Yayoi Kusama. Possibility. You taught us all to be open and free, but now I know the impossibility. Free. stability. Hello? Ah, Yoko! How are you? Where are you, Yoko? In New York? Oh. Sorry, I don't go back to that country anymore. Yes, I would really like to see you, Yoko. Well, maybe we can meet somewhere else, but not in New York. Okay, Yoko. On the China Wall? Are you sure? Okay, Yoko. Thank you, Yoko. Yes, I love you too, Yoko. Yeah, I know about it. I know. I still remember John, too. Yes, Yoko. Take care, Yoko. Ciao, Yoko.